Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Generazione mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Atmosfere Made in USA oggi sulle nostre frequenze con tanti consigli pratici su come andare a realizzare il vostro progetto di formazione nel settore umanistico oltreoceano, pandemia permettendo ovviamente, ma non è assolutamente il caso di demordere nella vostra ricerca di un profilo pienamente internazionale. Oggi ci trasferiremo a New York sulle orme di una giovane studentessa italiana che ci racconterà per filo e per segno come studiare nella grande mela. La collega del Sole 24 Ore, Francesca Barbieri, tornerà su queste frequenze con le sue dritte utili su bandi e opportunità aperte a livello globale, mentre in Job Abroad sarà Eures Italia a portarvi sulla strada di un lavoro in Europa. Infine, a chiudere la puntata, andremo in Olanda per regalarvi un paio di spunti utili a pianificare un vostro trasferimento nei Paesi Bassi, sempre che pensiate possano fare al caso vostro, professionalmente parlando. Bene, prima di partire per Amsterdam, però, dobbiamo fare tappa negli States. Tutto è pronto per volare a New York. Generazione mobile. Lo spunto della settimana ce lo fornisce la recente classifica QS coi più importanti executive MBA a livello globale. Al primo posto resta la statunitense Penn, seguita dalla spagnola Iese e dalla francese Haese. Quinta la London Business School, settima la francese INSEAD, dall'ottavo posto Oxford. In Asia il migliore executive MBA è appannaggio della National University of Singapore Business School, quindicesima nella classifica generale. In Africa infine l'Università di Cape Town a offrire il miglior MBA continentale. Bene, è arrivato il momento di Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utile a orientarvi nel mondo del lavoro internazionale, e tornano anche i consigli pratici del Sole 24 Ore. Ascoltiamo allora cosa ci riserva il menù odierno insieme alla collega Francesca Barbieri. Il Covid non ferma i programmi di studio all'estero per i ragazzi delle scuole superiori. Per l'anno scolastico in corso i numeri sono ovviamente ridotti e le partenze risultano subordinate all'andamento dei contagi nei paesi di destinazione. Nell'attesa di poter tornare a viaggiare a pieno regime, soprattutto in Europa e con il rispetto di tutte le norme anticontagio, a partire dall'anno scolastico 2021-2022. È stato pubblicato il nuovo bando di Intercultura, l'associazione di volontari che attraverso una rete internazionale offre ai giovani tra i 16 e 17 anni la possibilità di trascorrere fino a un anno scolastico all'estero. Il concorso è rivolto a studenti nati tra il 1 luglio 2003 e il 31 agosto 2006, che grazie alle borse di studio offerte dal Fondo Intercultura potranno frequentare una scuola locale e vivere in una famiglia selezionata. Il programma può durare 4 settimane durante l'estate oppure un periodo variabile che va da 2 mesi, 3, 6 fino all'intero anno scolastico. Gli studenti che vogliono partecipare al concorso possono iscriversi fino al 10 di novembre sul sito www.intercultura.it. I posti a disposizione sono in 60 paesi di tutto il mondo. Tra le novità, Intercultura segnala l'apertura dei programmi in Grecia, frequenza dell'anno scolastico, e l'attivazione dell'anno scolastico del trimestre nel Regno Unito. Anche per quest'anno Intercultura offre centinaia di borse di studio attraverso il proprio fondo e grazie al contributo di diversi partner. Le opportunità di studiare e di formarsi, di fare esperienza di lavoro all'estero non si fermano qui e riguardano anche i ragazzi più grandi. È appena partito il bando delle Nazioni Unite che offre una serie di opportunità di formazione professionale all'estero per i giovani laureati che non abbiano superato i 28 anni di età, che potranno svolgere un percorso di formazione professionale presso gli uffici e le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite in paesi in via di sviluppo e presso le sedi estere dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione dello Sviluppo. Le borse hanno una durata di quasi un anno e prevedono, prima dell'assunzione dell'incarico, un corso di formazione di 2 settimane che si svolgerà in Italia. Il programma 2020-2021 è indicativamente articolato in questo modo. A maggio del 2021 ci sarà il corso di formazione. Tra giugno 2021 e fino a maggio 2022 si svolgeranno i tirocini presso gli uffici di organizzazione del Sistema delle Nazioni Unite. A causa della pandemia del Covid-19 potrebbero però verificarsi delle variazioni sia nella data d'inizio della borsa di studio sia nelle sue modalità di attuazione. Per poter partecipare al programma è necessario avere una serie di requisiti: essere nati il o dopo il 1 gennaio 1992, possedere la nazionalità italiana, avere un'ottima conoscenza della lingua inglese, aver ottenuto la laurea specialistica o magistrale, la laurea magistrale a ciclo unico oppure una laurea triennale accompagnata da un titolo di master universitario. La scadenza per l'inoltro delle domande è il 30 ottobre 2020 alle ore 15. Per avere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.undesa.it. La testimone della settimana è una studentessa di scrittura 21enne che ha scelto gli Stati Uniti quale luogo di elezione deputato alla sua formazione. Nei prossimi minuti Anna sarà in onda con noi per spiegarci sia perché lo ha fatto, sia soprattutto come replicare la sua esperienza, fornendo a tutti voi aspiranti scrittori e attori all'ascolto un modello da seguire. Buon pomeriggio, Anna Montagnier. Buon pomeriggio. A soli 21 anni hai già intrapreso un'importante carriera formativa oltreoceano dopo la maturità scientifica, perché tu volevi studiare recitazione e ai massimi livelli, e perché proprio negli Stati Uniti. Crescendo ho imparato che l'industria americana è un'industria sicuramente maggiore di quella italiana e di conseguenza l'educazione attoriale a livello accademico viene considerata non sempre, però in parte al pari di un'educazione universitaria. Tutto è passato da un provino a Berlino. Come è avvenuto? Un provino a Berlino è avvenuto su consiglio di un amico, in realtà. E un provino a cui ho dovuto presentare 2 monologhi in lingua inglese e una canzone. E dopo ho dovuto partecipare ad un workshop con altri studenti e un insegnante dell'accademia. E dove sei approdata poi negli Stati Uniti? Sono approdata a New York, a The American Academy of Dramatic Arts, quindi l'Accademia di Arte Drammatica Americana, un corso di 2 anni incentrato sulla recitazione teatrale, però anche recitazione di fronte alla telecamera. E hai concluso il tuo percorso biennale appunto all'American Academy ad aprile, tra l'altro in quarantena. Sei soddisfatta guardandoti indietro? Sono soddisfatta perché è stato il mio primo approccio professionale, diciamo, alla recitazione. Studiare a livello accademico ti permette davvero di immergerti in quello che è il ruolo attoriale. Non sono soddisfatta di come si è venuto a concludere l'anno, però non era prevedibile, insomma, non abbiamo potuto fare una cerimonia finale o uno spettacolo finale. E adesso stai proseguendo gli studi in scrittura alla The New School of New York come transfer student. Nella pratica cosa significa? Essere transfer student significa che ci si vuole trasferire da un'università ad un'altra e quindi si ha completato almeno un semestre ad una prima università. Il vantaggio di essere un transfer student è che è la seconda università in cui ci si trasferisce, conta dei crediti ottenuti dall'educazione precedente e di conseguenza è più veloce raggiungere la laurea e quindi si investe meno tempo e meno denaro. E poi c'è anche una bella novità che riguarda un tuo lavoro, lo vedremo presto sul palcoscenico. Quando? Sì, ho scritto una play, uno spettacolo teatrale che è stato accettato ad un festival, il New York Theatre Festival. Doveva essere messo in scena a gennaio, ma purtroppo per emergenza Covid è stato spostato all'estate 2021. Comunque ce la faremo, dai Anna. Arriviamo però ai tuoi consigli, partiamo dall'inizio con la preparazione necessaria per partire verso una formazione universitaria negli States. Preparatevi con largo anticipo, suggerisci. Perché? Perché il processo per iscriversi ad un'accademia, ad un'università americana non è difficile, ma è un processo lungo, richiede davvero tanti documenti, non solo da parte del candidato, quindi dello studente, ma anche documenti che arrivano direttamente dalla scuola o dalla banca. e spesso devono anche essere tradotti in lingua inglese, quindi è un processo davvero lungo. Non fa male prepararsi con tempo, ecco. Dove cercare informazioni? Io consiglio i siti delle università. A volte forse possono essere difficili da capire, però si può contattare l'università telefonicamente o tramite email. Lavorano 24 ore su 24 con gli studenti internazionali, quindi sono davvero disponibili. Un altro modo che consiglio è quello dei gruppi Facebook. Io faccio parte di tantissimi gruppi Facebook di giovani italiani a New York o studenti italiani a New York, dove insomma si può con un semplice post chiedere aiuto ai propri coetanei. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Anna Montanier, 21enne studentessa di scrittura a New York, dove ha iniziato studiando recitazione. Un accesso davvero esclusivo, quello che vi stiamo offrendo oggi sulle frequenze di Radio 24 al mondo del palcoscenico e del teatro a livello internazionale e su come accedervi fin dal periodo di formazione. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Come deve essere strutturato il curriculum da preparare? Il curriculum per un'università americana richiede sicuramente i voti che lo studente ha ottenuto durante le superiori, ma quello che è davvero importante per le università americane è vedere una crescita a livello personale dello studente. Quindi il mio consiglio è durante le superiori crearsi un curriculum esterno alla scuola. Che cosa significa? Dimostrare che si ha fatto parte di attività di volontariato o che si ha ottenuto premi a livello letterario o sportivo, che si ha fatto parte di associazioni giovanili, perché conta davvero tanto nell'application per le università americane. E Anna, c'è un sito generale proprio per l'application usato dalle università stelle strisce? Sì, si chiama Common App. È un sistema che facilita il processo di iscrizione perché permette allo studente di compilare una sola scheda che vale poi per tutte le università e quindi viene mandata tramite questo sito a tutte le università a cui lo studente è interessato. Poi c'è un'ultima parte che è dedicata agli essay, che sono dei saggi che lo studente deve scrivere e sono di solito tipici per ogni università, quindi quella è una parte diversa che va compilata a seconda dell'università a cui siete interessate. A proposito dell'essay, il mio consiglio è quello di farsi aiutare da un insegnante, poiché la formattazione del saggio americano è diversa dalla formattazione del saggio italiano. Occhio alla conoscenza della lingua inglese, avverti. Quanto è importante? Allora, la lingua inglese è importante poiché le università chiedono un test di lingua inglese, che sia IELTS, che sia TOEFL. Di solito questo test, il risultato del test ha una valenza di 2 anni. Alcune università chiudono un occhio, ma io consiglio di seguire questo limite dei 2 anni poiché le application vengono valutate alla fine del processo di iscrizione, quindi verso i mesi di aprile o maggio, e di conseguenza se il test non è valido non c'è più tempo poi per lo studente di rifare il test e rimandare i risultati. Capitolo visti studenti, tu quale hai fatto e quale permanenza ti sta garantendo? Io ho fatto un visto F1, quindi è un visto studente che ho fatto nel 2018 quando ho iniziato l'Accademia di Recitazione. Mi permette di rimanere negli Stati Uniti come studente full time in un'università, di viaggiare tranquillamente all'interno e all'esterno degli Stati Uniti e di fare ovviamente un processo di trasferimento tra università e università come quello che ho fatto io. E arrivando più nel dettaglio alla tua esperienza, come in positivo o in negativo ti ha colpito la metodologia di insegnamento negli Stati Uniti e anche le lezioni, come si svolgevano? Suddivido l'educazione accademica da quella universitaria. L'educazione accademica l'ho trovata sicuramente molto seria a livello professionale. Io stavo in accademia a volte anche dalle 9 di mattina fino alle 10 di sera. Poi in generale quello che ho notato in entrambe le università è il rapporto studente-professore, un rapporto molto stretto. I professori hanno dei colloqui con lo studente proprio a uno, almeno 2 o 3 colloqui a semestre, settimanali, hanno delle ore in cui i professori sono disponibili per lavorare insieme allo studente. Quindi in generale l'università americana è davvero basata sul garantire il successo dello studente. Siamo anche seguiti da degli academic advisor, quindi a dei veri e propri consiglieri dello studente che aiutano a formare il percorso accademico. Sulla vita pratica, i tuoi consigli anche qui importanti, alloggio negli Stati Uniti si può contare sugli appartamenti per studenti? Sì, gli appartamenti per studenti, ovvero i college, sono un'ottima scelta, secondo me, se non si conosce la città, se non si hanno amici all'interno della scuola. È sicuramente un alloggio dove sentirsi sicuri, ecco. Io ho alloggiato ad esempio negli appartamenti studenteschi, magari consiglio, siccome gli appartamenti studenteschi di solito hanno una cucina ogni 15 persone o insomma sono davvero molto piccoli, consiglio di alloggiare semestre per semestre, quindi magari di fare un contratto solo per il primo semestre e poi eventualmente di spostarsi all'esterno degli appartamenti universitari con nuove conoscenze, ecco. Anna, purtroppo il tempo corre e sarebbe ancora bello poter rimanere in linea con te e poter avere ulteriori consigli pratici, dritte importanti per studiare negli States. C'è tempo solo per la domanda di rito. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio per studio? Guardate l'application con tempo e fate una lista di tutti i documenti che vi servono. Bene, lasciamo allora la nostra testimone della settimana e diamo spazio alla rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia, che oggi però dedica il suo focus al curriculum da presentare per attirare l'attenzione dei potenziali HR comunitari. Sentiamo Valeria Scalmato, coordinatrice nazionale Europass. Tradizionalmente Europass ha offerto strumenti per supportare la mobilità professionale in Europa, ad esempio il più diffuso è il curriculum vitae o l'Europass Mobility o il Diploma Supplement, ma dal 1 luglio 2020 è diventato anche altro, è diventato un portale che è interamente gestito dalla Commissione Europea, è gratuito, tradotto in 29 lingue ed è rivolto non solo a chi cerca o vuole cambiare lavoro, sempre in un'ottica di mobilità, ma è rivolto anche ad attori istituzionali e agli operatori come quelli ad esempio dei servizi all'impiego e dell'orientamento. Che cosa possiamo trovare in Europass? Il cuore del nuovo Europass è l'e-portfolio, una sezione in cui possiamo costruire un profilo, il nostro profilo, descriverci rispetto alle esperienze di studio, di lavoro, le competenze formali e informali, progetti, referenze e poi a partire da questo profilo, senza bisogno di ricominciare ogni volta da zero, potremo creare tutti i CV che vogliamo scegliendo tra più formati grafici. Ci sarà anche un editor online che ci guiderà anche nel creare delle lettere di presentazione, che poi potremo conservare insieme a CV, alle candidature per tenerne tracce e tutti i certificati che abbiamo, li potremo conservare, dicevo, nella cosiddetta biblioteca, cioè una sorta di archivio, un cassetto digitale personale. In Europass c'è anche una sezione informativa che sarà molto ricca e che al momento deve essere ulteriormente implementata, in particolare nella sezione Studia in Europa e Lavora in Europa si potranno ricercare o se abbiamo dato il consenso al portale potremo ricevere dal portale suggerimenti sia sulle opportunità di apprendimento in Europa sia offerte di lavoro e queste ultime passeranno attraverso un altro importante portale europeo che è Eures. Per conoscere meglio il nuovo Europass e il nuovo portale, l'indirizzo del sito della Commissione Europea è www.europass.eu. Vi ricordo che anche sul portale dell'ANPAL troverete una sezione dedicata al nuovo Europass. L'indirizzo è www.anpal.gov.it/Europass ed Europass Italia è anche presente su Facebook e Twitter sotto il marchio Skillon, che è un unico punto informativo per altri due punti di contatto nazionali oltre ad Europass, e cioè EQF ed Euroguidance, che sono attivi sempre presso l'ANPAL. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Proseguiamo il nostro viaggio nell'universo delle centinaia di gruppi Facebook che fanno da catalizzatori virtuali delle nostre comunità di giovani espatriati e lo facciamo spostandoci in Olanda. Con noi per darci qualche dritta pratica sul vivere e lavorare nei Paesi Bassi c'è Roberto Ruggeri, uno degli amministratori del gruppo Facebook italiano. italiani in Olanda. Le finalità del gruppo sono state sempre dare un supporto e le prime informazioni necessarie a chi voleva intraprendere il trasferimento in Olanda. Avete una stima di quanti italiani vivono o lavorano in Olanda o ad Amsterdam, ma anche un po' sulla base della partecipazione ai vostri gruppi? Come numero di italiani nei nostri gruppi siamo fra tutti e due i gruppi sui 60.000, però diciamo da stime ufficiali la comunità italiana in Olanda dovrebbe stare intorno ai 75-80.000 italiani. Con lei vorrei concentrarmi sulle opportunità per cominciare di lavoro in Olanda. Quali sono i settori, secondo lei, che sono più interessanti per dei giovani italiani che magari vogliono cercare fortuna nei Paesi Bassi? Beh, diciamo che fondamentalmente da qualche anno in qua il mercato di preso, quindi con possibilità lavorative più alte e che naturalmente permettono uno stile di vita, un benessere di vita più alto, sono quelle ad alto skill, quindi laureati, master. Il resto sì, posizioni magari più specifiche, il problema è che queste richiedono sempre una buona conoscenza della lingua olandese. E come città dove è più facile trovare lavoro, sicuramente per un expat le direi Amsterdam e Rotterdam. È l'Olanda anche un posto interessante dove venire a studiare, oltre che lavorare, anche formarsi, diciamo? Sì, le università olandesi oltretutto offrono molti dei master o dei corsi di laurea, li offrono in inglese, quindi è una meta abbastanza ambita a livello internazionale, anche se c'è qualche indicazione al cambiamento, nel senso che vorrebbero reintrodurre determinati tipologie di corsi solo in olandese, ma è qualcosa che girerà un po' e ancora non è stato attuato. E un'ultima cosa riguarda invece la vita in Olanda. È un paese con un costo della vita alto, per evitarlo lei consiglia di concentrarsi magari su centri più piccoli, non sulle grandi città come Amsterdam. Come approcciare questo aspetto? Il problema è uno solo, nel senso sì, sicuramente nelle grandi città il costo della vita è più alto. I servizi posso dirle che purtroppo rispetto all'Italia funzionano bene ovunque. Il problema è che quando si esce dalle grandi città la lingua olandese è un aspetto fondamentale che molto spesso viene sottostimato. Per maggiori informazioni potete cliccare sul gruppo Facebook Italiani in Olanda. E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio? Consigli utili da chiedere? Testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è davvero semplice, basta scrivere un'email a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.